Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Ultima settimana di luglio, ormai le vacanze sono arrivate, ma non possiamo dire di poterle cominciare se non chiudiamo questo ciclo di Radio Next. E lo facciamo oggi con Marcello Brivio, che è l'Head of E-commerce di Pupa, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno Pepe, buongiorno a tutti. Allora Marcello, Pupa lo conoscono sicuramente più il pubblico femminile che non quello maschile, però chi magari non ha fatto un regalo alla propria amata e non abbia regalato del make-up, e Pupa insomma si riconosce all'interno del mondo, come dire, del mondo del make-up e del beauty femminile. Mi racconti un attimino però che cosa è successo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Come ha affrontato Pupa il lockdown da un punto di vista di business, da un punto di vista del modello di business? Certo, allora presentiamo innanzitutto un pochino il contesto di quella che è l'azienda, sì. Pupa. Bisogna dire che ovviamente Pupa, come dicevi tu, è un brand leader in Italia nel mercato cosmetico, però ha una tradizione fortemente B2B, con una distribuzione diciamo molto capillare che va dalle grandi catene di profumeria fino alle piccole realtà tradizionali. Questo in Italia, dove ovviamente siamo molto conosciuti, ma anche nel resto del mondo non tutti sanno che Pupa è un brand che esporta in circa 70 paesi in tutto il mondo, quindi praticamente ovunque. Mm-hmm. Accanto a questo canale distributivo, che rimane il principale, Pupa ha affiancato da qualche anno quella che è una rete diretta di negozi proprietari in alcuni paesi d'Europa, e da poco meno di 3 anni anche uno shop online, pupa.it appunto, che vende in 10 paesi europei. Cosa è successo? Ovviamente durante il lockdown quello che abbiamo registrato è stato chiaramente, come è ben noto, una crescita, un'accelerazione di tutto quello che è il canale online. Certo. Una crescita che era già in atto, come ben noto, da vari anni, e che ha subito un'accelerazione diciamo direi anche brusca. Qualcuno ha detto una frase che forse al Netcom Forum mi piace citare: in 2 mesi è stato fatto un passo avanti di 5 anni nel cambiamento delle abitudini di acquisto degli italiani verso il digitale. È quello che abbiamo riscontrato anche noi. Sì, diciamo che tutti gli e-commerce sono cresciuti a doppia cifra, a tripla cifra, chi esatto. più chi meno, però è andato molto bene. Ma gli impatti sull'azienda, perché voi appunto, tu hai incominciato dicendo questa è un'azienda B2B, no? Esatto. E deve diventare un'azienda anche B2C, in maniera in questo momento sempre più importante. Allora, come si affronta questo cambiamento? Beh, certamente si affronta appunto affiancando i due canali. Il rapporto col B2B, che rimane ovviamente il canale principale, viene comunque ovviamente mantenuto. Mm-hmm. Con un giusto balance, una giusta relazione con quello che è il nuovo canale, tra virgolette, diretto, che si colloca in che contesto? Si colloca in un contesto in cui deve sostanzialmente offrire una relazione diretta con il proprio cliente finale, in un contesto in cui appunto diventa sempre più difficile con negozi chiusi, adesso stanno riaprendo comunque con negozi chiusi. Beh, con delle limitazioni non indifferenti. Limitazioni non indifferenti, mantenere quello che è il polso con i propri clienti finali. Penso anche perché, ormai, scusami, peraltro il vostro mercato è un mercato fatto di test, cioè di prove, voglio vedere il colore, esatto, del rossetto, capire come mi sta sulla pelle, e questa cosa è difficile da fare online se non ho già comprato, se non sono già un cliente abituale. Questa experience che c'era nel negozio, come si trasforma? Allora, si sta trasformando in maniera molto, molto importante. Banalmente stiamo ricevendo dai nostri stessi clienti, ma anche nei nostri punti di vendita fisici, mm-hmm, la necessità di modificare appunto quella che è l'esperienza di acquisto con i tester che sono, se hai presente come è fatto un negozio di cosmetica, sono una delle parti più frequentate, perché sono comunque, il negozio di cosmetica vive di esperienza, vive di certo, appunto di possibilità di toccare con mano il prodotto, provare ad esempio un fondo tinta o un prodotto di make up sulla propria pelle. Questo con le limitazioni portate dal lockdown, comunque dalle nuove regole di sicurezza che ci sono, è venuta un pochino meno. Quindi mm-hmm. Che cosa succede? Cambiamenti sia per quello che riguarda il retail fisico, sia per quello che riguarda il mondo online. Dal punto di vista del retail fisico, noi ci siamo mossi, credo, molto bene e molto tempestivamente per realizzare dei safe tester che consentiranno di mantenere comunque una certa modalità di provare il prodotto mm-hmm. comunque in un contesto di piena sicurezza e di rispetto delle regole che devono esserci in negozio. Da un punto di vista di quello che succede online, diventa sempre più importante appunto raccogliere quello che è un nuovo afflusso di clienti che arrivano sui nostri shop proprietari, servirli nel migliore dei modi per cercare di fidelizzarli e di farli di renderli partecipi di quello che è il mondo Pupa e di inserirli in quello che deve essere un'esperienza fortemente brandizzata dall'inizio dal momento in cui atterrano sulla nostra home page fino a quando ricevono il pacco con i nostri prodotti. Questo qui è un pochino lo scopo, e ovviamente il canale online sta crescendo in maniera drastica nella sua importanza, appunto spinta da quello che è un nuovo afflusso, una nuova acquisizione di tutti questi clienti che soprattutto durante il lockdown sono rimasti chiusi in casa per 2 mesi e si sono trovati, gioco forza, ad acquistare il prodotto cosmetico online. Questa cosa chiaramente è stata una grandissima opportunità per chi come me si occupa di e-commerce, ma anche una grandissima responsabilità, mi viene da dire. Il canale e-commerce, il canale online in generale, era l'unico attivo sia per generare vendite, ma soprattutto per mantenere una relazione con i nostri clienti finali, sì. Esatto. Devo dirti che dal mio personalissimo punto di vista ho visto troppe aziende che tuttora stanno rinunciando a mantenere il rapporto con il cliente, semplicemente perché hanno fatto un conto profitti e perdite con quello che significa tenere aperto, e dato che non stanno vendendo come prima, per loro è, dal loro punto di vista, ritengo miope, meglio tenere chiuso. Il vero problema è che, tu lo sai meglio di me, quando il cliente cambia abitudini non torna indietro, quindi se incomincia a comprare da un'altra parte difficilmente poi tornerà da te. Ma ti volevo fare un'altra domanda. Un'azienda B2B che è abituata a gestire ordini di una certa dimensione, perché vanno alle catene di distribuzione, ai rivenditori, ai negozi, alle profumerie, come ha fatto a fare lo shift e a incominciare a gestire la logistica piccoli prodotti, di piccoli pezzi per decine, centinaia, migliaia di clienti? Certamente è una delle sfide più complesse dell'e-commerce, che ormai si gioca sempre di più sull'aspetto di quello che succede dopo la chiusura dell'ordine, mentre magari fino a qualche anno fa la parte, se vogliamo, più divertente, la parte più di marketing, quella di storefront, sì, come la chiamiamo noi, dove si gioca sostanzialmente l'experience, la cosiddetta user experience o la customer experience sul sito, mm-hmm. Il momento in cui si fa veramente la differenza nell'e-commerce si è spostato assolutamente in maniera molto drastica sul fronte logistico. Sì. Quindi certamente è necessario, e lo è stato per Pupa, ma penso sia così per tutte le realtà simili alla nostra, dotarsi di un partner che possa consentire la realizzazione delle dinamiche logistiche che sono... Ma voi avete esternalizzato diverse. I magazzini per il B2C, o avete all'interno dei vostri magazzini, della vostra gestione logistica interna, avete una parte B2C e una parte B2B? In questo momento abbiamo un magazzino centrale che gestisce gli ordini B2B, e abbiamo un partner esterno che gestisce tutto quello che è il magazzino e-commerce. Okay. Quindi abbiamo uno spostamento fisico di merce che ci permette di mantenere comunque un controllo in questo momento isolato e safe di tutte quelle che sono le dinamiche e-commerce, che sono completamente diverse da quelle che sono le dinamiche del B2B, come dicevi tu. Banalmente l'e-commerce lavora col singolo pezzo e poi soprattutto con un allestimento, e ti garantisco che il nostro è un allestimento che definirei con i controfiocchi, che deve essere curato in un certo modo, ecco. Marcello, ma l'amministrazione quanto ti ha urlato dietro quando hai incominciato a vedere richieste di ricevute e nemmeno di fatture con prodotti che uscivano al singolo cliente, dovendo gestire una mole di transazioni piccola in termini di importi, ma grande in termini di numeri? Sì, devo dire che dall'amministrazione di Pupa, mi fai una bellissima domanda, l'amministrazione di Pupa, devo dire, anzi approfitto per ringraziarla, perché è stata sempre dalla parte del progetto. Sì. Mi rendo conto che l'e-commerce, per chi si occupa in una realtà come Pupa, dove hai spiegato benissimo la realtà di chi fa finance, di chi fa tesoreria, di chi fa amministrazione, e si occupa di tutta la parte di fiscalità, certo, è abituata a lavorare sui grossi ordini, quindi che richiedono, non dico un minore lavoro, ma comunque un certo tipo di controllo diverso. Con l'e-commerce significa generare tantissimi micro ordini, certo, da riconciliare, da gestire da un punto di vista fiscale. Certo. Devo dire che qualche grattacapo, come per tutti i progetti di questo tipo, lo abbiamo causato, perché è stato un cambio importante da un punto di vista aziendale, ma devo dire che lo abbiamo saputo gestire grazie ai miei colleghi veramente della parte finance in maniera eccellente, direi. Peraltro anche i gestionali, che normalmente sono abituati a emettere bolle d'ordine con una partita IVA sopra, a questo punto dovevano gestire delle uscite senza partita IVA, perché il cliente finale mica detto che abbia una partita IVA. Esatto, no, il nostro e-commerce è rigorosamente B2C, perché comunque il mondo B2B in questo momento viene gestito con i canali che l'azienda ha, perché l'azienda Pupa è un'azienda di vocazione principalmente B2B, quindi abbiamo la nostra area, certo, che gestisce la distribuzione sia in Italia che all'estero, sono aree ben strutturate da quel punto di vista. L'e-commerce è nato proprio come e-commerce B2C, che si rivolge al consumatore finale, quindi con tutte le logiche che stavi dicendo tu, del singolo ordine, della singola fatturazione o ricevuta per il micro ordine e-commerce, ecco. Chiaro. Per chiudere la nostra chiacchierata, come vi state comportando con i retailer online, quindi con i marketplace puramente online, grandi o piccoli che siano? Allora, innanzitutto dipende, questo è uno dei grossi temi diciamo di questo periodo. Per farti un esempio, una cosa che sta succedendo è che il nostro team, che segue tutta la parte di export, una parte molto importante di quello che è il business di Pupa, sta ricevendo ultimamente contatti per l'apertura di nuovi mercati, ma ti dico in paesi di prima magnitudine, dove la richiesta del distributore è: apriamo solo online. Questo richiede di impostare a noi, a tutta l'azienda, un metodo di lavoro nuovo, completamente diverso. Esatto, vanno banalmente messi in piedi e strutturati dei flussi e degli strumenti che consentono un adeguato scambio dei contenuti, delle schede prodotto, degli asset grafici, certo, in forme che sono destinate all'utilizzo online da parte di questi partner. Quindi diventate un content provider con un DAM interno al quale darete accesso ai vostri partner esterni. Esatto, l'obiettivo è proprio di tirare in piedi qualcosa di simile, perché comunque diventa, se prima magari i business, anche per i nostri clienti B2B, la parte online era più marginale, adesso quello che mi capita di vedere, poi io chiaramente come e-commerce manager vengo coinvolto spesso in queste discussioni, certo, che hanno spesso una sfumatura un po' tecnica, diciamo che mi capita sempre più spesso di ricevere appunto richieste dal team che si occupa dell'export, ma anche dai team che si occupano della distribuzione anche in Italia, dove abbiamo comunque dei clienti che sono dei pure player, sostanzialmente per avere una relazione, per instaurare con loro una relazione che sia il più possibile fluida e produttiva nell'ambito proprio della produzione e dello scambio dei contenuti che servono anche ai nostri clienti per lavorare al meglio online. Grazie mille, era Marcello Brivio, Head of E-commerce di Pupa. Grazie per essere stato con noi, Marcello. Grazie a te, Pepe. E allora grazie ancora a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi durante quest'anno meraviglioso, pieno di novità, pieno di interessantissimi ospiti che abbiamo intervistato. È giunto il momento di salutarci per le ferie estive. Noi ci troveremo al rientro delle vacanze a settembre subito con una nuova intervista e parleremo di smart working. Da parte mia, Pepe Moder, ovviamente come sempre l'appuntamento è per il podcast di domani mattina in versione estesa e non mi resta che augurarvi buone vacanze. Un saluto a tutti voi. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.